La vite adesso è il vecchio albergo della terra, di ognuno una stanza, ognuna storia, di mattini più leggeri cieli, smarginati di speranza e di silenzi da ascoltare, e ti sorprenderai cantare. Non sai perché la vita adesso, nei pomeriggi appena freschi, che ti viene il sonno e le campane, girano le nuvole e piove sui capelli, sopra i tavoli, mi dei caffè all'aperto e ti domandi incerto chi sei. Sei tu che spingi avanti il cuore ed il lavoro duro di essere un uomo e non sapere cosa sarà il futuro. Sei tu nel tempo che ci fa più grandi e solo in mezzo al mondo, con l'ansia di cercare insieme un bene più profondo, e un altro che ti dia respiro e che si curi verso te con una testa di volersi di più senza capir cos'è. E tu che mi ricambi gli occhi in questo istante immenso, sopra il rumore della gente, dimmi se questo ha un senso. La vita adesso nell'aria tenera di un dopo cena in musica, i bambini contro i verdi prati che si lisciano come gattine, stelle che si appicciano ai lampioni, mentre ti chiederai dove sei tu. Sei tu che porterai il tuo amore per cento e mille strade, perché non c'è mai fine al viaggio, anche se un sogno cade. Sei tu che hai un vento nuovo tra le braccia, mentre mi vieni incontro, e imparerai che per morire ti basterà un tramonto. Ed in qualunque sera ti troverai, non ti buttare via e non lasciare andare un giorno per ritrovar te stesso, figlio di un cielo così bello, perché la vita è adesso.